excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Beh, buon pomeriggio. Sono tornate le ribelli. Wow. Yeah. Eh beh, oggi è una giornata davvero deliziosa e meravigliosa. Perché, Gioia, perché? Perché oggi è il nostro compleanno. Yay! Allora, oggi ricordiamolo, perché così tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici se lo ricorderanno a vita, perché avranno la possibilità anche di ascoltarlo nei podcast. Ma oggi, 21 marzo, 2021, è il nostro primo compleanno. Facciamo auguri! Un anno. Auguri! Sanae! Auguri! Auguri ribelli! Eccole, infatti qui con noi questo calore non viene solo dallo studio, ma viene anche da Zoom. Yeah! Dall'internet. E ragazze, chi siete? Come vi volete presentare dopo un anno? Che domanda, come ci vogliamo presentare addirittura? Dopo un anno, insomma, quest'anno è stato intenso, meraviglioso. Abbiamo fatto un sacco di approfondimenti, sto improvvisando, supportatevi. Beh, a me viene da dire, ci siamo presentate? Siamo le belle. No, non video, le voci. I video, certo. Abbiamo dato finalmente... ma ho girato poco. Ah, ancora non è pronto. Sono ancora stati pubblicati. Ho fatto un'anticipazione. Spoiler. Vabbè, però finalmente potremo dare un volto alle nostre voci. Stasera uscirà e poi ogni singolo, insomma, vedrete. E poi ci saranno delle novità anche sui social, quindi... Perché la nostra social media manager... è sempre sul pezzo, ci ha fatto lavorare. Non mi vedono. Sì, beh, qua comunque ne abbiamo un bel po' di social media manager. Infatti, siamo... siamo anche un po' musiciste, DJs, montatrici, audio... Madonna, siamo troppo spaziali. Siamo troppo avanti. Beh, io vi saluto sempre da Edimburgo, comunque. Sono sempre qua. La nostra ribelle al nord. Esatto. Io vi saluto da Roma invece. Mamma mia, ma siamo ovunque. Oh, ovunque. Ovunque. Ovunque nell'Interland soprattutto. Io sono andata a milanese beach. Ah, però tu sei fortunella. Abbiamo anche Maya da Bari. Da Bari Beach. No, com'è Los che Santos. Los Santos. E abbiamo le DJ dalla lontana periferia del nord. Poi Martina. Dalla periferia del sud. Esattamente. Infatti arriviamo adesso ovunque. Ci stiamo un po' incastrando in questa discussione. Cerchiamo di tirarci fuori da questa per dire che non abbiamo preparato un niente. Proprio un niente. Assolutamente niente. Se non delle sorpresine, delle cose molto carine per ricordarci di questo anno meraviglioso passato insieme. Hai detto molto carine? Guarda, non oso risponderti. Ma no. Perché? Perché non te lo ripeterò mai così. Ma come Gioia, l'hai tu mi senti tu. In cuffia? Io non mi sento. Tu non ti senti? Com'è possibile? Oh mio Dio, non io senti? Non mi sento. Allora, aggiustiamo questa cosa. Chissà qual è il mio. Ma secondo me è il secondo tasto, però se non è quello sarà il terzo. Pro. Io comunque ti sento. Bella la diretta, come al solito. Vabbè, se mi senti tu, a posto così. Ma sì. Comunque ci sentiranno i nostri ascoltatori, in alternativa possono dirci no, noi Giulia non la sentiamo e se fosse il caso potete scrivercelo alla chat Telegram cercando chiocciola Radio Zam trattino basso chat, oppure ce lo potete scrivere anche sul canale Instagram delle Ribelli, che adesso Andrea ci ricorderà perché io non l'ho ancora imparato dopo un anno. Le trattino basso, ribelli trattino basso, Zam. Perfetto, se no potete scriverlo anche sulla pagina Instagram, cioè sul profilo Instagram della radio. Radio Zammi Sud. Perfetto, oppure su quello di Facebook della radio. Radio ZAM. Madonna mia, siamo troppo pro. E altri canali non ci sono. Se no potete, ecco, io oggi ho fatto una scoperta. adesso se mi sente Lorenzo mi picchia, e perché sul sito di ZAM, www.zam-milano.it, nella sezione radio c'è la sezione podcast suddivisi per tutte quante le trasmissioni della radio, e se andate su Le Ribelli trovate tutti quanti i podcast delle nostre puntate messi in ordine cronologico. Ed è una pagina meravigliosa, meravigliosa. È veramente bellissima, oggi mi sono quasi emozionata quando l'ho aperta, cioè ogni volta che la apro mi emoziono. Questi sono i social media manager di ZAM invece, che... funzionano bravi bene anche loro, bravi tutti, esatto. Anzi, brav tut. Quindi oggi non abbiamo ancora pensato in realtà al nome della puntata, lo scopriremo in questa ora e mezza quale titolo darle, quindi se volete anche rispondere a questo input potete farlo sui canali che abbiamo appena elencato. Gioia, lo sai che ogni volta che lancio un sondaggio del genere non risponde mai nessuno? Ma io ci credo invece. Vediamo. Comunque, secondo me il titolo potrebbe essere Buon Compleanno Ribelli, cioè molto, molto yeah così, cioè compleanno, Buon Compleanno Ribelli. Molto va bene. Secondo me potremmo dire anche che alla fine oggi è una puntata mash up. Ho fatto un mix di interventi che sono stati fatti durante l'anno e ne abbiamo selezionato qualcuno da riproporre, potremmo dire, buttarla giù così. Sì, brava Tecla. Giusto, giusto. È buono. Hai detto bene. È la verità, e poi soprattutto ricorderei che Gioia e io questa mattina abbiamo perso gli occhi per estrapolare questi. Ma infatti adesso questi faccio minuti. Anch'io vi anticipo che ho una sorpresa per voi e spero che Le Ribelli siano in ascolto. Allora ammetto, quindi metto le mani avanti, che è la mia prima esperienza, potevo fare mille volte di più, il tempo era quello che era, per cui non offendetevi se... Ti stai già giustificando. Mi sto già giustificando. Sì, sto già... sì, perché devo farlo. E quindi quando arriverà il mio momento spero vi piacerà quello che vi ho preparato. E allora, nel frattempo io direi di coronare questo incontro, questi momenti iniziali e questa fantastica giornata soleggiata e un po' nuvolosa, anche perché è il primo giorno di primavera. Mm-hmm. E quindi non possiamo non sentire questa canzone. Assolutamente. Siete d'obbligo. Pronte? Ho capito. Vai. Voglia di stringersi poi. Vino bianco, fiori e vecchie canzoni. E si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico se al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare. Come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Se per innamorarmi ancora tornerò, maledetta primavera. Giulia, lasciamo a lei il trono in questo momento. Va bene. Per innamorarmi basta un'ora. Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era, se fa male solo a me. Che non toccano un cuore, stelle una sola ce n'è, che mi può dare la misura di un amore. Se per errore chiudi gli occhi e pensi a me, quanto cacchio è lunga. Rieccoci qui. Ok, allora, visto che non c'è una scaletta e noi improvvisiamo perché siamo ribelli, eccetera eccetera, insomma la solita solfa, da quale contributo vogliamo iniziare? Facciamo un sondaggio. Facciamo decidere. Secondo me già io dovresti decidere tu. Va bene, va bene. Allora, intanto Giulia intrattiene. Allora, volevo raccontarvi una cosa che mi è successa oggi, bellissima. Sono molto felice perché oggi è il primo giorno di primavera e qua a Zam abbiamo deciso di piantare un po' di piantine nel nostro giardino condiviso. Piantine. E mi hanno assecondata nella mia grande voglia di avere il gelsomino. E quindi abbiamo piantato il gelsomino sulla rete del giardino condiviso. Bello! Dai, ma che bello! Sì! Una cosa molto carina. Bello! Anch'io ho piantato un sacco di fiori in settimana. Hai tipo visto? Una cinquantina di bulbi. Chissà se nasceranno mai. Vediamo se le terre di Edimburgo sono pro fiori o no. Ma sì, sicuramente. Finché non ci saranno gli scoiattoli a portare via tutto. Belli gli scoiattoli. Se no pianti un po' di scoiattoli. Non sono belli. Non sono belli gli scoiattoli. No. Scoiattoli non ci piacciono. Perché portano via tutto. Gli inglesi sono stati importati qua e stanno uccidendo i nostri. Brava, e l'hanno già fatto perché non sono quelli inglesi. Erano americani. Sono arrivati dall'America. Hanno ucciso gli scoiattoli nelle terre loro, insomma. Esatto, hanno ucciso gli scoiattoli rossi e che adesso sono quasi in estinzione. E gli scoiattoli grigi stanno invadendo tutto. E si mangiano tutto, si portano via tutto e continuano a scavare nel mio giardino. Bruch gli scoiattoli. Giulia per l'ambiente. Esatto. Vota no per gli scoiattoli che esatto. si mangiano i suoi bulbi. Esatto. Tanto qua si intrufolano, sempre bene, molto bello. Io sono Ricetta. Benvenuta Rachele. Ciao. Sei in diretta su Radio salutare. ZAM. Ciao. Sulle ribelli. Nel frattempo sono riuscita ad acchittare il contributo, ho scelto quello di Lady J. Forse qualcuna riesce a intuire, si ricorda uno dei pezzi. Io non più vedo belli. L'ora! Ok, perfetto. E magari anche qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice. Quindi io farei partire con quest'unica premessa che abbiamo iniziato, cioè per la puntata di oggi ognuna di noi ha estrapolato un pezzettino di puntate che abbiamo fatto durante l'anno e che ci faceva piacere riascoltare tutti insieme. Scusami, visto che è un momento molto alto, mm-hmm. si sente se sgranocchio?

fatto uscire sul blog di InfoOut, e lei appunto riprende proprio questo aspetto, avere questa visione globale per riuscire a determinare un vero cambiamento nella lotta, qualunque essa sia. Canzone. Sì. L'ho scelta io. Vabbè, l'ho sentita. Comunque volevo dire, la professionalità di Gioia, posso dire il cognome? No, i cognomi non si dicono. Ma mi sa che meglio di no. Ok, la professionalità di Gioia, mentre c'è la diretta, lei risponde al telefono, si allontana, cioè sta alla regia. Insomma, un po' di serietà. Ci vuole anche un po' di cura. Vabbè, ma di una persona importante. Comunque vorrei dire che si è aggiunto un altro ribelle. Sto per dire la stessa cosa. E chi è? Saluti dal profondo sud. Chi sentire tu? Io, proprio io. Sì, ciao, sì. Maya! Ciao a tutti e tutti, ribelli! E buon compleanno a noi! Yeah! E anche buongiorno! Ancora! Ogni volta riparte la Merco. Ma tra l'altro, spettatori, dovete sapere che spettatori, perché dico sempre ascoltatori, no? Oh, vabbè. Che in realtà, tipo, io e Maya non ci siamo mai viste dal vivo. Caramba. Neanche io e Maya. Maya non ha mai visto dal vivo tre quarti delle ribelli. Ha solo ospitato a casa sua, anche allo Santos, Martina, e ha visto dal vivo Gioia e Merco, ma quelle paio di volte, ma mica sempre, no? Guarda che mi stavo arrabbiando perché non mi puoi vedere, mi stavo dicendo, ma dove sei? Scherzavo. Gioia e Marco le ho viste troppo pure loro. Tanti bacini. Gioia non ti sta cagando, sta andando avanti per la sua strada. Io non ho parole, anche perché è una bugia. Che puntatone. Va bene, Gioia, dimmi. piccola gaggia malvagia che non sei altro, cosa ci stai per fare ascoltare? Vi sto per fare ascoltare un contributo che ha scelto Giulia di Edimburgo, di e da Edimburgo. Ah, magari direi da, perché? Ma ormai è anche di Edimburgo, e, dove però si sente la mia voce, quindi mi dispiace. Poi sì, ne seguirà un altro, sempre sullo stesso argomento, così anche un po' per completare il quadro dell'argomento stesso. Posso fare, possiamo dire qual è l'argomento? Prima vai, di lanciare. Vai, vai. Allora, praticamente ho selezionato qualche minuto dalla puntata di novembre con Vera Gheno, che abbiamo fatto sul linguaggio, linguaggio inclusivo. La puntata era su si concentrava sul linguaggio inclusivo e sui i nomi femminili singolari. E Gioia ha fatto una domanda intelligentissima a un certo stranamente, punto. Stranamente. What? Grazie Giulia. Ma i commenti li hanno fatto le altre, mi era semplicemente un po' metti pure la colpa. Hai fatto una domanda veramente importante e Vera ha dato una risposta molto chiara e precisa, e penso sia adesso la sentiremo, e penso sia appunto una tematica che interessa tutto nell'universo. E poi il secondo pezzettino sarà invece la sottoscritta che legge Italo Calvino, sempre sul linguaggio. Introduzione finita. Va bene. Grazie Giulia. Allora adesso prego. Mando. Grazie, prof. Allora, no, io volevo chiederti, Vera, ma appunto, per quanto riguarda quello che hai detto prima che ascoltassimo la canzone, cioè, qual è il tuo pensiero, la tua opinione sul come nominare, anche sicuramente dal punto di vista della linguistica, anche tutti gli altri generi? Cioè, ovviamente esiste il genere uomo, esiste il genere donna, per cui abbiamo il femminile e il maschile, traduciamolo in questo modo, però per tutti gli altri generi che cosa può esistere nella lingua italiana? Ma il punto è che al momento non esiste nulla di specifico. Gioia al microfono. Grazie. Ok, al momento non esiste nulla di specifico perché il problema non è mai stato posto. Cioè, se è vero che noi quello che noi nominiamo si vede meglio, è anche vero che noi nominiamo come esseri umani ciò di cui abbiamo esperienza. E fino a tempi recenti, come dire, tutto ciò che non era binario, no? Nel senso di genere umano, era un'assoluta rarità, cioè era visto solo dal punto di vista della stranezza medica, direi, no? Cioè, pensate alla definizione ermafrodito, che esisteva già ovviamente nell'antichità, c'era la figura dell'ermafrodito già nella mitologia greca. Adesso mi sembra che nella direzione in cui sta andando la nostra società, cioè di essere sempre più attenta nei confronti delle diversità, per l'appunto si pone anche il problema di nominare le persone non binarie, gender queer, gender fluid, perfino agender. C'è una soluzione al momento? No, ce ne sono tante fatte in casa, dal basso per così dire, da vari gruppi LGBT plus o femministi o altre persone che diciamo riservano una particolare attenzione a queste questioni di genere, e quindi abbiamo un pullulare di almeno 20 soluzioni diverse: gli asterischi in fondo alla parola, la chiocciola, la barra, l'apostrofo, l'assenza dell'ultima lettera. Io così avevo sposato la causa dello schwa, no? Della vocale indistinta segnalata nell'alfabeto fonetico internazionale da una piccola e capovolta, ma riconosco che tutti questi escamotage, la U, la X, perché poi dimentico sempre qualcosa, al momento nessuno di loro, intanto non sono in competizione, cioè tutti quanti servono per sottolineare l'esistenza di un'istanza che alcuni hanno più a cuore di altri. Per esempio, per me, il fatto che ci sia una parte dei miei connazionali, o come dire, persone che parlano la mia stessa lingua, che non si sentono rappresentate dal punto di vista linguistico, basta per far sì che io mi voglia occupare, voglia prendere in carico questa istanza. Però io stessa, come nessuno, ha una soluzione finale, definitiva, buona, che funzioni davvero per questo problema. Secondo me la cosa interessante di questo momento è che ci siamo posti la questione, tante persone più di prima se la pongono. Quale sarà l'output finale di questa gigantesca nuvola di pensieri e di soluzioni esistenti al momento, non lo so, però intanto un primo passo è stato fatto, no? Cioè knowledge, no? dare adito, come dire, mostrare che si è tenuto conto dell'esistenza di persone che non si riconoscono nei due generi. Perché sento il bisogno di difendere dei valori che a molti potranno sembrare ovvi? Credo che la mia prima spinta venga da una mia ipersensibilità o allergia. Mi sembra che il linguaggio venga sempre usato in modo approssimativo, casuale, sbadato, e ne provo un fastidio intollerabile. Non si creda che questa mia reazione corrisponda a un'intolleranza per il prossimo. Il fastidio peggiore lo provo sentendo parlare me stesso. Per questo cerco di parlare il meno possibile. E se preferisco scrivere, è perché scrivendo posso correggere ogni frase tante volte quanto è necessario per arrivare, non dico a essere soddisfatto delle mie parole, ma almeno a eliminare le ragioni di insoddisfazione di cui posso rendermi conto. La letteratura, dico la letteratura che risponde a queste esigenze, è la terra promessa in cui il linguaggio diventa quello che veramente dovrebbe essere. Alle volte mi sembra che un'epidemia pestilenziale abbia colpito l'umanità nella facoltà che più la caratterizza, cioè l'uso della parola. Una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza, come automatismo che tende a livellare l'espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze. Non mi interessa qui chiedermi se le origini di questa epidemia siano da ricercare nella politica, nell'ideologia, nell'uniformità burocratica, nell'omogenizzazione dei mass media, nella diffusione scolastica della media cultura. Quel che mi interessa sono le possibilità di salute. La letteratura, e forse non solo la letteratura, può creare degli anticorpi che contrastino l'espandersi della peste del linguaggio. Vorrei aggiungere che non è soltanto il linguaggio che mi sembra colpito da questa peste, anche le immagini, per esempio. Viviamo sotto una pioggia ininterrotta di immagini. I più potenti media non fanno che trasformare il mondo in immagini e moltiplicarlo attraverso una fantasmagoria di giochi, di specchi. Immagini che in gran parte sono prive della necessità interna che dovrebbe caratterizzare l'immagine, come forma e significato, come forza di imporsi all'attenzione, come ricchezza di significati possibili. Gran parte di questa nuvola di immagini si dissolve immediatamente, come i sogni che non lasciano traccia nella memoria, ma non si dissolve una sensazione d'estraneità e di disagio. Ma forse l'inconsistenza non è nelle immagini o nel linguaggio soltanto, è nel mondo. La peste colpisce anche la vita delle persone e la storia delle nazioni, rende tutte le storie informi, casuali, confuse, senza principio né fine. Italo Calvino, 1984. Anche qui l'applauso, eh! A Calvino. Allora, beh, anche... Up and down, down, down, up and down, down, down, up and down, up and down, up and down, down, down, up and down, down, down, down, up and down, on my body, make me beat your sass, daddy, move it on, shake it on, are you ready? Up and down, on my body, make me beat your sass. Chiedo scusa a tutti coloro che ci stanno ascoltando, non lascerò mai più la regia e la scelta delle musiche a Gioia. Chiedo scusa. Sì, comunque anche Giulia Mercu sta ballando, eh. Come on, throw your body and dance into the groove. My guy, do everything you want. If we'll be together, baby, all night long. Up and down from my body, make me feel. You said, daddy, move it on, shake it on. Are you ready? up and down. Pull my body, make me feel your size, daddy, move it on, shake it on. Are you ready? You can kiss me and hurt me, hug me and hit me, deep, deep inside, but don't fall in love with me. Kiss me and hurt me, hug me and hit me, deep, deep inside, but don't fall in love with me. Up and down, down. Body make me feel you size, daddy, move it on, shake it on, are you ready? Up and down, pull my body, make me feel your size, daddy, move it on, shake it on, are you ready? You can kiss me and hurt me, hug me and hit me, deep, deep inside, but don't fall in love with me. Kiss me and hurt me, hug me and hit me, deep, deep inside, but don't fall in love with me. Up and down, down. Così, certo, qui sì, sì. Io l'avevo promesso che è una canzone chicca e infatti così è stato. Abbiamo ballato tutte con entusiasmo. Nel frattempo, dal nord al sud dell'Italia. Anche oltre. È vero. E anche oltre. Tra l'altro Giulia Mercu mi ha abbandonato, per cui io prego una delle mie ospiti, se vogliono non fare le timide e partecipare... No, niente, fanno le timide. Niente. Comunque, Gioia, devo dire che hai selezionato proprio una playlist da compleanno. Cioè, complimenti, brava. Grazie, grazie. Ripetilo anche quando arriva Giulia. Intanto mangio pane e Nutella. Beh, qualche canzone te l'abbiamo infilata. Anche pane e Nutella è classico cibo da compleanno. Beh, sì, effettivamente. Comunque c'è da dire che Up and Down dei Venga Boys è proprio la canzone che si mette tra le 10:30 11 meno un quarto, quando sta salendo quel gin tonic benzina a tetolo proprio, e tu balli. Quindi sì, è proprio una canzone di compleanno, raga. Cioè, ufficiale. Che belli compleanni. Madonna, Madonna, che belli. Comunque, ma Gioia, cosa mettiamo adesso? Allora, dove andiamo? Adesso andiamo nell'iperspazio e incontriamo Maya. Again. Nel suo brillante contributo che ha dato un po' di mesi fa, forse era già a maggio. Spazio. Era quasi una... no, era del 23 aprile 2020, eravamo da un mesetto ormai entrati in questa situazione pandemica, e quindi da ribelli abbiamo pensato che fosse necessario fornire i nostri fruitori e i nostri ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatoru, di un decalogo del sexting consenziente. Ebbene sì. Wow. Quindi adesso ce l'ascoltiamo e ce lo pimpiamo ad alta voce. Ce lo ascoltiamo, cioè, ce lo pimpiamo, bello, con la bocca tutta piena, brava. Vabbè, tu sei scappata e nessuna... Io sono andata a prendere il cibo per rimpiazzare te, guarda che brava. Non ti crederò finché non vedrò il cibo sul tavolo, sappilo. Grazie Benny che ci dai da mangiare. Va bene, allora adesso lo faccio partire. Mai ha preparato per noi una cosa molto, molto, molto utile. Puntini, puntini. Interessante. Buonasera, Radio Slam. Ciao, Maya. Come stai? Ciao. Va bene, bene, bene. Molto, molto felice e eccitata per questa puntata, ragazzi.

Mamma mia che pezzo. Abbassa la cassa. Ops. Ecco fatto. Rieccoci. Aloha. Comunque questa mi è piaciuta molto. Maya. Maya. Abbiamo perso Maya. No, no, ci sta volutamente ignorando. Abbiamo perso Maya, sì. Completamente. Non so come, ma io sento ancora musica. Maya, volevo sapere da te se ti è piaciuta la sorpresa musicale. Madonna, mi ha fatto impazzire completamente. Perché chi non, ovviamente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non hanno visto Maya come cantava. Ma siamo proprio sicuri che non l'hanno. No, ormai è già tutto online. È già tutto online. Vai, Maya, cantaci un pezzo di online. No, cantarlo così, no, ci saranno i video. Tanto però mi vedrete a ballare sulla dance floor di Calvairate e Porta Venezia. Once I will back to Milan, non vi preoccupate. Va bene, allora io nel mentre ho preparato uno degli ultimi contributi che abbiamo scelto per questa sera. E adesso ascolteremo un pezzo di Tecla. Tecla, vuoi dirci qualcosa? Ma io sì, dirò due parole. Allora, mi sembra che questo pezzo risalga alla puntata del 14 maggio 2020, quindi eravamo proprio agli inizi, agli albori. Sì, sì. E mi pare fosse quello che si intitolava Corpi Violati. Esatto, ancora coi collegamenti telefonici. Esatto, e infatti ci chiamavamo e si sente nell'intervento che mi chiamate, infatti. E io ho selezionato proprio questo intervento perché oggi, oltre a essere il 21 marzo, primavera, eccetera, è anche la giornata della poesia. Perché l'anno di Alda Merini, quindi in omaggio in onore al suo compleanno e appunto anche la giornata della poesia. E quindi cosa potevo fare se non farci riascoltare l'intervento su Alda? Bellissimo. Sì, poi mi ricordo, mi sa che c'è anche un pezzettino dove parla lei. E quindi non dico più niente, ma andiamo, dai. Via. Tantissimi suoi libri di poesie, lei descrive anche a Milano, parla del Naviglio. E in particolare mi incentrerò sulla sua condizione nel manicomio, dove Alda trova nella poesia uno spazio, mi ripeto ancora, uno spazio di cura per allietare i suoi dolori, e trova la poesia lo usa come momento terapeutico, no? Come una forma d'arte, e sottolinea questo corpo torturato dagli elettroshock e cerca di, attraverso la poesia, di riappropriarsi di un sé che è stato denudato e discriminato anche, no? Lei dice che, una poesia che poi sentirete dopo, che un pazzo non può e non deve amare nessuno, no? E da questa tua citazione volevo anche un po' ricollegarmi a quello che hai detto tu, Marti, perché la Merini fu internata nel 1965 e uscì dal manicomio nel 1978, che è proprio l'anno in cui uscì la legge Basaglia. E da qui volevo leggervi un piccolo pezzo, una piccola citazione di Basaglia, che dice: non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno manicomi e cliniche chiuse, è importante che noi adesso abbiamo provato che si può fare diversamente. Ora sappiamo che c'è un altro modo di affrontare la questione, anche senza la costrizione, no? Perché stiamo parlando di corpi che erano costretti, erano legati, indossavano camicie di forza. E poi l'elettroshock, diciamo che toglieva l'anima, no? Ti cancellava i ricordi, serviva questo, no? E la Merini ha avuto questa grande forza di continuare a scrivere. E lei dice: decantavo l'amore, no?

Simona Vaffa. No, più fisico, stavo un ballando, applauso ma... a Cyndi Lauper. Madonna, grandissima. E un applauso a Gioia ballare, che ha perso un polmone. Davvero. Portate un respiratore, per favore. Sì, no, adesso abbiamo siamo riuscite però a sfumarla un pochino. Siete bravissima. Bravissima. Sì, no, raga, la Pina vi vuole a Radio DJ, eh. Ah, le sfumature, i tappeti ormai. Io sto puntando a Radio ormai, Popolare, sì, ve lo dico, cioè, sì, top. Top. Ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Anche questo è un po' uno spoiler. Posso dire in diretta una cosa, Giulia? Oggi, per dire così, quanto piccolo il mondo. Mi ha appena scritto un mio carissimo amico, mi ha detto: ma Andre, ma tu lavori con Giulia? Sì, è stata la mia insegnante di informatica, cioè di, al corso di informatica in inglese. Ah, ma Giulia, io! Ma che cos'è la puntata crossover? Sì, che figata! Mi ricordi i miei studenti di informatica? Anch'io potrei insegnare informatica, certo. Ah, certo. No, no, insegnavo inglese. Non ti credo, non ti credo neanche se ti credo, te lo giuro. In inglese? No, insegnavo inglese generale al corso di informatica il primo anno della statale di Milano. Boom! Boom! E me li ricordi, ragazzi, perché è stato uno dei miei primi lavori alla statale, me li ricordi, ragazzi, di informatica. Erano Antonio, tutti maschi e tre femmine. Cioè. Antonio! Antonio, ah sì, Antonio! Beh, salutiamo Antonio! Me li ricordo veramente! Ciao Antonio! Ciao Antonio! Ciao Antonio! Ciao Antonio! Connettiti ogni domenica dalle 4:30! Ascolta Le Ribelli, vita naturale durante su Le Ribelli, e avrei una fantastica puntata crossover del tuo 2000. Che anno era, Giulia? 2018 penso. 2018 e 2021, mashup just on Le Ribelli. Eccoci. Povero Anto. Povero Antonio, veramente. Che si è sorbito tutte le mie lezioni. Comunque no, perché? Ma sei brava. Ma sì, però poverini, avevano un'ora e mezza di fila, cioè peso. Bravi, bravi, studiare, studiare, studiare. Adesso sempre. Mi sa che è il turno del contributo di Andrea. Allora, io in realtà non ho fatto in tempo a selezionare niente, ergo ve lo farò così. Tipico. Ve lo voglio dire, ve lo faccio chiedere. Vi faccio scegliere, preferite Carla Lonzi o preferite una bellissima poesia, o entrambe? Ma io direi andiamo sulla poesia, che è la giornata della poesia oggi. Sì, poesia. Ma cosa significa? Non lo so, però mi faceva ridere. Gioia fa gesti. No, volevo dare anch'io un suggerimento. Volevo fare un suggerimento. Adesso te lo spiego, ascolta. Alfabeto secondo Gioia. Aieie Brazov, esatto. Parte 1. Grazie. No, ma volevo fare una suggestione, non lo so, un segnale che magari ne ascoltiamo una. Ok, va bene. Allora, hanno scelto tutta la poesia, questa in realtà non è mai stata fatta alle Ribelli, però l'avevo scelta per leggerla a voi, perché mi piace molto, volevo dedicarvela. È una poesia di Yumana Haddad. Ok? Me la leggo. Scusate, mi metto i cucchiali anche, così. Sono improbabile. Allora... Femmina e maschio, fui concepita all'ombra della luna, ma Adamo fu sacrificato alla mia nascita, immolato ai mercenari della notte. E per colmare il vuoto della mia altra assenza, mia madre mi ha lavato con acqua torbida e mi ha portato sul pendio di ogni montagna, consegnandomi al rombo delle domande. Mi ha consacrato all'eva della vertigine e mi ha impastato con il buio e la luce perché fossi donna centro e donna lancia. Gloriosa e trapassata, angelo dei piaceri senza nome. Straniera crebbi, e mai nessuno poté mietere il mio grano. Ho disegnato la mia vita su una pagina bianca, mela che nessun albero ha partorito. Poi l'ho ritagliata e ne sono uscita. Una parte di me vestita in rosso e l'altra in bianco. Non ero solo dentro o fuori del tempo, perché ho avuto origine nelle tue foreste e mi sono ricordata prima di nascere, di essere una moltitudine di corpi, di avere dormito a lungo, di avere vissuto a lungo. E quando sono diventata un frutto, quel che mi attendeva, ho chiesto ai maghi di prendersi cura di me e allora mi hanno presa. Ero la mia risata dolce, la mia nudità azzurra e il mio peccato timido. Mi libravo sulle ali di uccello e di notte diventavo un guanciale. Rivestirono il mio corpo di talismani e spalmarono il mio cuore con il miele della follia. Custodirono i miei tesori e i ladri dei miei tesori. Mi portarono silenzi e racconti e mi prepararono a vivere senza radici. Da quel momento sono in cammino, indosso una nuvola ogni notte e viaggio. Solo io mi dico addio e solo io mi accolgo. Il desiderio è il mio cammino e la tempesta la mia bussola. In amore non getto l'ancora in nessun porto. Di notte lascio gran parte di me stessa. Poi mi ritrovo e mi riabbraccio appassionatamente al ritorno. Gemella del flusso e del riflusso, dell'onda e della sabbia, dell'astinenza della luna e dei suoi vizi, dell'amore e della morte dell'amore. Di giorno la mia risata appartiene agli altri, ma la mia cena segreta mi appartiene. Chi comprende il mio ritmo mi conosce, mi segue, ma mai mi raggiunge. Wow! Questa, secondo me, era molto, molto una poesia. Grazie, molto Andre. Grazie. Un po'. È meravigliosa, grazie. Che bello che ce l'hai dedicata. Sì. La dedico, ragazzi. Grazie, Andre. Dobbiamo vedere quanto tempo avevamo. sì. È stato molto bello. A voi ribelli, auguri a tutte noi a questo anno insieme. Come siamo tenere. Vero, guarda, io sono veramente troppo contenta che esistiamo, ragazze, perché poi nei momenti peggiori ci siamo sempre, cioè siamo qui, siamo in pandemia ci sentiamo, ci ritroviamo, parliamo, bello. Diffondiamo la cultura, la poesia, cioè bello, benissimo, auguri. Questo è un grandissimo esercizio di cura reciproca anche, devo dire la verità, perché c'è molta... condivisione anche di quello che ci accade, dei nostri problemi, insomma, molto bello quello che facciamo anche tra di noi. Sicuramente. Sì. Emozioni. Ma quindi adesso sto ancora aspettando la sorpresa di Gioia. Esatto. Mandiamo una canzone. Va poi... bene. Sì, sì. Tanto la mia sorpresa sarà breve. Purtroppo. È breve come sorpresa. Allora, adesso... non prendiamo in giro le R, per favore. No, ma io le amo, io sono molto invidiosa, vorrei averla. Sì. No, è vero. Molto sexy. Maya, sei mutata. Bello, Maya, sei mutata. Dicevo, le idolatriamo, le R e le S, Mosh. Io in realtà le soffro molto, le cose un po' così. Benvenuta. Abbiamo fatto benvenuta la DJ. Sei DJ pronta per l'ultima canzone. Ciao belloni. Ciao bellona. Ma questo è il collettivo disagio comunque. A proprio agio nel disagio, però, sempre. Guardate che la prima puntata dove saremo tutti insieme in radio farà scassare. Se no, scoppia. Secondo me salta Zam. È il giorno in cui proprio esplode Zam. Non esplode in tot anni, ma esplode nel momento in cui ci ritroviamo tutti. Basta che i miei gelsomini rimangono lì. No, i gelsomini si salvano con la radio. Ok, perfetto. Babul. Come sta andando? Non ho sentito una mazza. Ma no, sta andando una bomba, siamo online. Sei in diretta anche. Sei in diretta. Pensavi fosse un attimo di pausa, invece no, è il delirio della burle. Stavate proprio facendo ci le sono cazzone. Delle chiappe. Vabbè, c'era tutto allora. Tutti. Comunque, Jess, è arrivata al momento giusto, perché adesso ascoltavamo ancora una canzone e poi ci sarebbe la mia sorpresa per tutte. Attenzione, la sorpresa di Gioia. Ah, sì, è come se fosse arrivata tipo un momento prima della torta e lo scarto dei regali. No, sono arrivata nel momento migliore. Sono anche molto contenta che adesso ci senti, perché ovviamente è un regalo anche per te. Quindi, senza spoilerare nient'altro, adesso io manderei questa canzone e poi ci riaggiorniamo. Perfetto. So uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind. Invece per me questo corso loro non era tanto, sì, era inglese informatico, ma diretta. Rieccoci qui, perché Madonna, ovviamente la canzone sono brava a cantare. È finita adesso. Vabbè, il ovviamente... disagio, ragazzi. Che disagio davvero, sì. Tanto, vabbè. Tanto però sempre, però proprio agio nel disagio. Esatto. Ovviamente. Il disagio è la nostra comfort zone. L'estate è sempre lo sarà. Va bene, dai, Gioia, sappiamo che non vedevi l'ora, è tutta la puntata che aspetta. Sì, sentiamo la sorpresa. Allora, ci vuole un attimo di concentrazione e di silenzio, perché dura 23 secondi, quindi sarà molto breve e quindi bisogna stare attenti a fare silenzio, così si sente tutto. One shot. Esattamente. Wow. Siete pronte? Lo faccio partire? Ok, 3, 2, 1... Eccoci! Uh-huh. È assolutamente palpabile. Cioè, the show must gone. Uh-huh. Guardare me, che sono un esempio fulgido di serietà. Ecco. Non sento niente, raga. Forma. Anche io. È triste dirlo, ma purtroppo stasera niente pomodorini. Che abbiamo intitolato come un inno alla masturbazione. Uh-huh. Pronta per i tecnicismi. Con la cual ya canta, viaja manche, porta labrador, cabo honka manche, cabo chaplumeña bañar la cana, vamos a pasar a la banda. Cabo chaplumeña bañar la cana, vamos a pasar a la banda. La banda. Champagne nya inshallah, jampo tsimato, amintita vai fazer yes mentera, ezonya esperança ela, amintita vai fazer yes mentera, ezonya esperança ela, ezonya. Champagne inshallah, jampo tsimado, a mentita vai fazer yes mentera, ezonya esperança ela, a mentita vai fazer yes mentera, ezonya esperança ela. Meraviglioso. Allora, vabbè, qui abbiamo dovuto creare delle escamotage per farlo sentire anche alle altre ribelli. Ce l'abbiamo è bellissimo. Fatta, no, mi fa morire. Un commento bello. Caldo. Ma chi è che fa? Ma chi è che fa? Che fai? È Jè. No. Sì, è la Jè. Gallina. Starnazzante. Eh? Cosa, Jè? Gallina starnazzante. Ma non è vero. Dai, la mia. Comunque fantastico, cioè bellissimo. Grande gioia. Grande gioia. Grazie. Cioè diventerà la mia nuova suoneria, lo sai? Vero. E messaggi. Sì, sì. Masturbando la masturbazione. Che incismi. Tra l'altro sono 20... io. Sono 23 secondi, ma ci ho messo tipo più di un'ora a farlo. Immagino. Ma devi aver Brava. Fatto un lavoro della Madonna. Immagino, lavorone. Fa male. Quindi tanti auguri. Auguri. Ma siamo in onda? Sì, sì. Ovviamente. Internet verità. Siamo quasi tutte comunque, non proprio tutte, quasi. È per quello che lo dicevo all'inizio, che non dovevate prendermela male, perché alla fine tipo ci avevo aperti solamente alcune registrazioni e c'erano solo alcune persone che parlavano. Se no ci avrei messo tutta la giornata e oh, mi dispiace. Sicura. Però per i due compleanni lo farò molto meglio. Ma penso che Tecla intendesse siamo tutte in linea. No, siamo tutte... Vabbè, esaurite, sicuramente esaurite, brava. Sì, sì, siamo tutte esaurite. Pezzo oggi. Sì, raga, tutte ipersintonizzate. Che bello essere tutte insieme. Quindi abbiamo concluso il compleanno e la puntata in questo fantastico modo. Sono molto contenta. Sì. Questo è il posto, questo è l'after. Ecco, quindi siamo, sono le 5 del mattino, ci guardiamo tutti completamente sconvolti. C'è Gioia che in realtà è tutta sbracata per terra, Mercu pure, siamo tutte buttate su tutti i divani, tutte le case. E ora è il momento di andarsene, secondo me. È ora di tornare a casa con Walk of Shame. Perché però non è Walk of Shame se tu te lo rivendichi. Brava. Sì. Walk of Pride. It's not a shame if I enjoy it. Esatto. Grande Maya. Cos'è che ha detto? It's not non a shame. Non è una vergogna se io me la son goduta. Molto vero. Verissimo. Cominciamo e continuiamo a modificare i linguaggi. No, in realtà stavo pensando alla canzone di Pink, che è proprio... Veramente? La canzone di Pink è veramente figa, perché lei dice proprio questo. Si intitola Walk of Shame, quindi quando torni a casa è la vergogna, ma nella sua canzone in realtà lei dice proprio questo. Non bisogna vergognarsi di niente, bisogna solo essere felici di aver passato una bella serata. Totale. C'è Mercu che vuole mettere una canzone. Vabbè, ragazzi, per fare una foto. Ah, ok. Facciamo cheese! Però non possiamo smettere di parlare, perché sennò chi ci ascolta. Esatto. E quindi siamo in radio. Mi ero dimenticata. Sì, continuiamo a parlare sorridendo mentre facciamo la foto e sorridiamo tantissimo mentre parliamo. No, beh, quindi facciamo saluti anche nel frattempo. Sì. Grazie nel frattempo. Per aver ascoltato questa fantastica puntata delle Ribelli Mashup from the past. Mashup from the past. Continuate a sorridere. È difficile parlare di Doriana. No, ma l'hai fatta, raga. L'hai fatta? Io l'ho fatta anche. Ok, sì. Ah, okay. Sì, raga, ne abbiamo 100. Tutta iscritta così. Va bene. E io ho messo una canzone che abbiamo già messo in realtà nel nostro passato, ma secondo me dopo questa puntata ci stava particolarmente. Assolutamente. E bene, ci vediamo settimana prossima. Ci vediamo. Ci sentiamo. Ci sentiamo settimana prossima alle ore 17. E non dimenticatevelo, noi vi manderemo la grafica questa volta. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. For me. Tennessee.